Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti gli Wheels of Fire da Milano. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD Hollywood Rocks, come primo che è andato in onda, titolo? Hollywood Rocks. Title track. Esatto. La vostra esperienza durante le recording session e quali le linee guida che hanno poi formato questo CD? Guarda, quei periodi durante la registrazione li ricordo con grande piacere, sono stati anche dal punto di vista di crescita artistica molto importanti, soprattutto vabbè, io ricordo le registrazioni vocali fatte insieme a Michele nel suo studio, mi sono servite veramente tantissimo anche proprio per crescere artisticamente. E Steve invece ha registrato nel mio studio tutte le parti di chitarra, come te le ricordi? Io ho un piacevole ricordo anch'io, perché dato che comunque è stata la mia prima esperienza, sempre sotto la supervisione di Michele, grazie ai suoi consigli sugli arrangiamenti, sulle parti di chitarra, devo dire che anche io mi sono arricchito molto da questa esperienza, e sicuramente è stata una cosa molto importante per la mia carriera professionale, diciamo, la mia vita professionale come chitarrista. La prossima canzone per i nostri ascoltatori si chiama Everywhere I Go. In studio ancora con gli Wheels of Fire, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti e cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato messo in risalto? Ma guarda, le recensioni veramente sono state molto positive e di ciò ne siamo orgogliosi. Ma tra le più importanti, guarda, anche a livello internazionale, mi piace citare il sito Glory Days, Rock Report, piuttosto che Hard Sound e MelodicRock.it. Quindi tutte recensioni positive. È stato messo in risalto, che ne so, anche lo studio e la qualità del suono, la pulizia del suono e la bella produzione anche del disco. E perché no, anche insomma, le qualità artistiche espresse da ogni singolo elemento. Quindi siamo veramente orgogliosi di questo. Prossima canzone? Prossima canzone, What I Want. Torneremo in breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Wheels of Fire, rimanete ancora su Radio RCS. I was just 18 when you came into my life. Time seems to stop when I look